9 in punto. Buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Questa mattina parliamo di IMU, come avete sentito è proprio sulla tassa sulla casa che si sta concentrando e sulla questione fiscale, come era anche naturale che fosse, che si sta scatenando la campagna elettorale. Ci sono le varie proposte dei partiti sul campo, avete sentito anche tra l'altro a questi microfoni quella del PD, un taglio per quelle più basse, no? per chi ha redditi più bassi, un innalzamento per chi ha patrimoni immobiliari più ampi. Ieri abbiamo sentito una riduzione dell'IMU, propone Lista Civica, propone Monti. Abbiamo sentito ieri quella che è stata definita la proposta shock di Silvio Berlusconi, ossia la restituzione addirittura dell'IMU sulla prima casa. Di questo parliamo innanzitutto con chi ha contribuito, non so se l'ha redatta interamente questa proposta. Renato Brunetta, buongiorno. Buongiorno a voi. L'ha redatta interamente lei la proposta? Guardi, è frutto di un lavoro collettivo come sempre nel nostro partito, ci sono varie competenze, varie specializzazioni e come dire, l'idea è di Berlusconi e il gruppo dirigente l'ha elaborata anche con dossier molto, molto corposi, quindi quello che è venuto fuori è la comunicazione pura e semplice. Ci sono dei dossier molto articolati a giustificare ovviamente una proposta seria di questo tipo. Ci spieghi come intendete farlo, insomma, quali sono le coperture, perché insomma poco fa abbiamo avuto ospite stamattina a 9 in punto l'ex ministro Tremonti, dice chiunque arrivi deve fare una manovra da 14 miliardi. Secondo quello che scrive il Sole 24 Ore e ha scritto più volte, questa manovra, l'entità di questa manovra è intorno ai 7-8 miliardi. Allora, in una situazione di finanza pubblica che evidentemente non è pienamente stabilizzata, vorrei capire come si fa ad attuare una proposta di questo genere. Allora, intanto che la situazione economica congiunturale non sia buona, questo l'abbiamo detto in tanti, io tra i primi, e che forse sia necessaria una manovra correttiva rispetto agli andamenti previsti da Monti, dal governo Monti, l'ho detto anch'io nei giorni scorsi. La ragione presto detta, viene previsto per il 2013 un dato di crescita, si fa per dire, del PIL del meno 1%, che è 5 volte peggio di quello che era previsto dall'ultimo DEF del governo Monti, che era meno 0,2. Per cui, al di là delle correzioni per il ciclo, al di là delle regole europee, che sia necessario fare qualcosa, questo è indubbio. E noi siamo partiti proprio da questo, fare qualcosa, ma non nell'ottica della manovra correttiva, perché questo sarebbe un atteggiamento passivo. Guardiamo come va e vediamo poi cosa correggere in ragione dei vincoli che ci impone l'Unione Europea. No, la nostra attitudine è quella di dire: perché non cambiare il ciclo? Perché non cercare di cambiare il ciclo? Allora il ciclo si cambia cambiando politica economica. Cambiando politica economica da subito, da marzo, più presto possibile, facendo una manovra correttiva, questo sì, ma della politica economica. Vale a dire restituire l'IMU prima casa pagata nel 2012, e qui il povero Fubini del Corriere della Sera dovrebbe studiare un po' di più prima di scrivere corsivi sul Corriere, perché non si parla di 24 miliardi di euro da restituire, ma si parla di 4 miliardi di euro, che è l'entità dell'IMU prima casa. Quindi il giovane economista del Corriere della Sera Fubini studi un po' di più prima di scrivere sul Corriere. Seconda cosa, 4 miliardi di euro da restituire diventano consumi immediatamente. Se poi a questi si aggiungono gli altri 4 miliardi di euro, vale a dire la cancellazione dell'IMU strutturale, chiamiamola così, che ci dovrebbe portare da giugno a pagare la prima rata e poi a fine anno pagare la seconda, noi abbiamo nelle tasche delle famiglie italiane tra restituzione e minor tasse sull'IMU 8 miliardi di euro. questi 8 miliardi di euro, che sono, ricordo, mezzo punto di PIL, diventano, è molto probabile che diventino, consumi, sono l'equivalente di 2/13, si dice in maniera un po' semplificatoria, e diventano consumi. Diventando consumi, essendo i consumi una parte rilevante del reddito, diventano reddito disponibile e quindi contribuiscono a limitare la caduta del PIL, soprattutto nella prima parte del 2013. Mi scusi Brunetta, la interrompo, ma se diventassero invece risparmi? Così è la frase. E sì, quindi limitare la caduta del PIL dell'1%, e quindi per questa via evitare la manovra correttiva. Prego. No, le dicevo, se invece questi soldi diventassero risparmi e non, visto, insomma, vista la sofferenza che ha portato la recessione in particolare nell'ultimo paio d'anni, invece gli italiani decidessero di non virarli in consumi questi soldi, di virarli in risparmi, la cosa alla fine rischierebbe di reggere poco, no? Una domanda intelligente. Salvo che quando si ha nella propria reddito disponibile una minore tassazione e un introito non previsto, normalmente, dice tutta la letteratura economica, la prego di andarla a rivedere, tutto questo naturalmente in previsione di un miglioramento della congiuntura si trasforma in consumi. Però lei è, come dire, legittimato a pensare, o qualcuno può essere legittimato a pensare che aumenti la propensione al risparmio. Tutta la letteratura spiega in questi casi che aumenta la propensione al consumo, soprattutto perché si tratta di redditi medio-medio-bassi, e sui redditi medio-medio-bassi la propensione al consumo è più alta, come è notorio. Nicholas Kaldor, il più grande economista sulla distribuzione del reddito, spiegava tutto questo. Ho fatto la mia tesi di laurea su Nicola Caldo e sul fatto che la propensione al consumo per i redditi medio-bassi è più alta che sui redditi medio-alti. Altro? Sì, voglio sapere la base di questo accordo con la Svizzera, del quale si è parlato moltissimo e che però sostanzialmente non è ancora stato firmato, non è ancora arrivato al cuore. Lei citava il collega del Corriere della Sera, Federico Fubini, che parla esattamente di quelli che sono, al di là, insomma, della cifra di 24 miliardi dei quali lei dice in realtà sono 4, perché sono quelli dell'IMU prima casa. C'è un accordo con la Svizzera da firmare. Questo accordo con la Svizzera, insomma, presenta dei problemi, non è una cosa immediata, perché c'è comunque una controparte, insomma, no? Allora, intanto bisogna dire che a voler l'accordo con la Svizzera è innanzitutto la Svizzera, perché se non fa l'accordo con noi non esce dalla blacklist per quanto riguarda i capitali detenuti all'estero e così via. Quindi questa è la prima motivazione. Fino a ieri il presidente Monti aveva cercato con tutte le sue forze di fare un accordo con la Svizzera, c'erano ovviamente dei problemi aperti sulla trasparenza, sulla nominatività e così via, che non sono certamente semplici, lo dico anch'io oggi in un'intervista sul Corriere della Sera, però come dire, qui serve la volontà politica. Noi, il governo Berlusconi, futuro, ha la volontà di chiudere al più presto l'accordo con la Svizzera, e penso su basi europee, perché l'Unione Europea si è interessata di questo problema, cerca di dare delle direttive a tutti i paesi perché tutti i paesi attuino in maniera coerente l'accordo, perché siamo in un sistema di vasi comunicanti per cui non si possono fare accordi, come dire, divergenti dal punto di vista delle regole. Altri paesi hanno tentato di farlo, alcuni l'hanno fatto, altri l'hanno fatto come la Germania, e poi il Parlamento ha bloccato tutto perché ha considerato le regole con cui era arrivato questo accordo troppo favorevoli. Sta di fatto che se ne sta parlando almeno dal 2011, si deve fare, lo vuole la Svizzera, lo vogliamo noi, e l'accordo potrebbe dare, noi abbiamo scritto 25-30 miliardi, fino a poco tempo fa addirittura si diceva 35-40, molto probabilmente una parte dei capitali hanno trovato sistemazione altrove rispetto alla Svizzera, certo, però come dire, se si definiscono regole ben precise sui capitali, come dire, residenti in Svizzera fino al 2012 e così via, questi problemi di volatilità e mobilità si risolvono. l'una tantum dovrebbe dare dai 25 ai 30 miliardi, ne servono 4 per l'una tantum, perché bisogna spiegare che la restituzione è un one off, un una tantum vale solo ovviamente per l'IMU pagata sulla prima casa nel 2012 e quindi deve essere coperta con un altro one off, con un altro una tantum. E io penso che i capitali tassabili in Svizzera e l'introito one-off che potrebbe venire è ben più ampio dei 4 miliardi che servono, senza dimenticare poi che da questo accordo deriverà un flusso anch'esso significativo sulla tassazione ordinaria nel tempo. Ultima domanda, perché insomma poi ci deve salutare. Questa mattina il Presidente del Consiglio, appunto Mario Monti, dice: se si votasse domani e la comunità finanziaria internazionale valutasse il programma di Berlusconi così come si sta configurando, immagino che qualche increspatura nei tassi di interesse potrebbe esserci. E aggiunge sulla questione dell'IMU: se vogliamo un voto di scambio ma anche un tentativo simpatico di corruzione, io ti compro il voto con dei soldi e i soldi sono dei cittadini. Che cosa dice? Che è volgare, come sempre inaffidabile e come sempre ricattatore, perché il gioco del ricatto, dello spread, ha già funzionato per lui una volta, non funzionerà una seconda volta. Ricordiamo tutti l'imbroglio dello spread, ricordiamo tutti che attraverso l'imbroglio dello spread il professor Monti è diventato senatore a vita, presidente del Consiglio, e per 13 mesi ha fatto quello che ha voluto con 55 fiducie. Progressivamente abbiamo capito che quello dello spread era un imbroglio, che era una grande speculazione contro il nostro paese, e lo ha visto lo stesso Monti il 24 luglio del 2012, quando lui regnante e lui, come dire, sobriamente rassicurante, lo spread era finito a 536 semplicemente perché sembrava che collassasse la Grecia e che uscisse dall'euro. Devo dire, questo trucco di Monti, si potrebbe chiamarlo il Monti trick, questo trucco di Monti non funziona più, gli italiani non la bevono più, si comincia già a dire: ecco, con la proposta Berlusconi lo spread già ricomincia ad andare su, basta, non ne possiamo più di questi ricatti. L'Italia è un grande paese, è un paese serio, con forze politiche serie, tranne qualcuna inventata di recente come quella di Monti serie, basta usare questo ricatto dello spread. Gli italiani hanno tutto il diritto di decidere liberamente cosa vogliono. Vogliono Bersani, vogliono una patrimoniale di Bersani, vogliono Bersani-Vendola, vogliono Grillo, vogliono Berlusconi. Hanno tutto il diritto di votare, hanno tutto il diritto di decidere. Gli italiani sono intelligenti e non saranno certo i banchieri amici di Monti o i poteri forti amici di Monti o Angela Merkel amica di Monti a imporre agli italiani la loro volontà politica. La smetta il professor Monti con questi ricatti, la smetta con queste falsità, anche perché dai sondaggi il suo consenso sembra in riduzione. Più strilla, più dice cose fuori dalla grazia di Dio, meno gli italiani gli credono. Lui ha avuto il consenso del mondo intero e gli italiani gli danno uno striminzito 7-8%. Chiarissimo, chiarissimo. Prima di salutarla però vorrei anche sentire un ascoltatore, un'ascoltatrice che penso che sia piuttosto critica con la vostra proposta. Sentiamo Ambra che ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, sì, io sono critica in questo senso, penso che con le detrazioni in corso l'IMU per i redditi medio-bassi non sia stata pagata sulla prima casa, mentre, lo dico proprio così, mentre penso che persone come Brunetta, Berlusconi e redditi anche medio-alti debbano pagare anche sulla prima casa, e la restituzione è una cosa improponibile, perché gente che può pagare sulla prima casa la deve pagare perché ha un reddito alto e non la deve restituire, quindi il sacrificio che abbiamo fatto l'abbiamo fatto, punto e basta. E i redditi medio-bassi con le detrazioni in corso, 200 euro sulla prima casa e gli sconti per i figli, non l'hanno già pagata ora. Chi se la deve pagare sono persone come, ripeto, Berlusconi e Brunetta, e non ci deve essere nessuna restituzione. Grazie. Grazie Ambra. Insomma, al di là dei vostri due nomi, Brunetta, il ragionamento che, insomma, quando si parla di prima casa si parla anche di patrimoni immobiliari consistenti, non è sbagliato, no? Prima casa che uno abita. Allora, pensiamo a una signora anziana che ha una casa magari vedova, con la pensione di 1500 euro al mese, quindi non una bassissima pensione, che ha una casa che paga di IMU 1200, 1300, 1500 euro, cosa fa quella persona anziana? Deve dare un mese abbondante della sua pensione per pagare l'IMU. Noi diciamo per tutti, la prima casa che si abita non deve essere tassata, perché lo è stata già, perché è il frutto dei risparmi, sia per una casa di modesto valore, medio valore, alto valore. La casa che si abita non deve essere tassata. Noi la pensiamo così. Se la signora gentile interlocutrice la pensa in maniera diversa, legittimo, non ci voti, voti chi la casa, la prima, la vuole tassare, però vede, il popolo italiano è fatto di 60 milioni di abitanti, 40 milioni di elettori, l'80% delle famiglie italiane vive nella casa di proprietà che abita, e per noi parliamo a questo 80% delle famiglie italiane che abita la casa di proprietà, e diremo loro: noi non vi faremo più pagare l'IMU prima casa e vi restituiremo quella pagata. Tutto qua. Poi gli elettori decidono. Grazie, grazie Renato Brunetta per essere stato con noi. Che so ci deve salutare. Buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata. E accogliamo invece, purtroppo ci spiace non essere riusciti per una questione di tempi ad attrezzare un confronto, insomma, però salutiamo con piacere, perché insomma ci ha raggiunto all'ultimo minuto, Stefano Fassina, responsabile economico del Partito Democratico. Buongiorno e grazie. Buongiorno a lei. Allora, valutazione su questa proposta Berlusconi. Ma la valutazione è che Berlusconi riconosce di aver fatto tanti danni agli italiani nel corso dei suoi 10 anni di governo, e per farsi perdonare prova a ripagarne un po', secondo lui cominciando dall'IMU pagata nel 2012. Dopodiché, se fosse coerente con la logica riparatoria dei danni provocati, dovrebbe restituire anche la maggiore IRPEF che abbiamo pagato grazie a lui, dovrebbe restituire la maggiore spesa per interessi sui mutui che le famiglie hanno pagato a causa dell'aumento dei tassi di interesse, e così pure alle imprese per aumento del costo del credito che hanno preso alle banche. Insomma, mi pare che se dovesse prevalere questa logica riparatoria, Berlusconi avrebbe molto da dover ripagare. Si tratta invece, come evidente se si va oltre la propaganda, delle solite promesse, esattamente quelle del 2008, che poi, come è noto, sono finite in più tasse per tutti. Quindi lei dice: entriamo in un circolo vizioso per cui insomma si mette la tassa sugli immobili, la si toglie, si ritorna a ridosso del default e poi tocca rimetterla di nuovo, questo dice? Abbiamo già visto questo film. Del resto, se fosse come dice Berlusconi, bisognerebbe trovare 8 miliardi già nei prossimi mesi, cioè 4 per restituire quelle del 2012, altri 4 per eliminare quelle per 2013. Chiunque ha un minimo di consapevolezza di come funzionano i mercati finanziari sa bene che l'ipotesi svizzera è ridicola, perché ovviamente nessuno che ha i soldi in Svizzera aspetterebbe che interviene Berlusconi per togliergli 25-30 miliardi di euro. Come è noto, andrebbero a trovare un'altra collocazione, i paradisi fiscali purtroppo sono abbondanti nel mondo, quindi l'ipotesi di copertura è assolutamente ridicola in riferimento alla Svizzera, col quale va ovviamente fatto un'offensiva per fare in modo che ci sia trasparenza e tassazione dei capitali. Purtroppo sono anni che andiamo avanti e le soluzioni non sono per nulla facili. Anche quella che la Germania aveva ipotizzato poi è stata bocciata dal Parlamento tedesco, perché era sostanzialmente un condono che in cambio di pochi soldi subito avrebbe lasciato capitali non tassati in Svizzera per sempre. Come pure è impraticabile l'ipotesi che ho sentito di farti anticipare le risorse da Cassa Depositi e Prestiti, perché se fosse così sarebbe un aumento di debito pubblico, in quanto quelle risorse sono depositate in tesoreria e sono utilizzate per pagare le altre spese dello Stato. Insomma, siamo davvero di fronte a una propaganda che già conosciamo, se non credo gli italiani ci cascheranno di nuovo, se ci cascano poi non se la potranno prendere con la politica, saranno responsabili in prima persona dei guai che ne verranno da queste promesse così demagogiche e impraticabili. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo all'800240024. Sentiamo qualche ascoltatore. Inizierei da Mauro che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Rapido, Volevo ricordare al professor Brunetta, che purtroppo ci ha lasciato, però okay, la onestà politica e pare la sua altezza, che tutti i provvedimenti di Monti sono stati tutti votati al PDL, ergo o erano utili e li hanno giustamente votati, ma se erano dannosi perché li hanno votati? Non ci piacciono, glielo dico molto francamente Mauro, non ci piacciono riferimenti come quello che ha fatto sull'altezza, perché insomma sono cose che non c'entrano niente, tutta franchezza. Stefano Fassina, è una domanda fatta a Brunetta e che però forse si potrebbe girare anche a voi tutto sommato. Sì, assolutamente. Il governo Monti ha gestito un'emergenza difficilissima, determinata da quelli che adesso fanno finta di arrivare da Marte. Noi abbiamo un atteggiamento più serio, ad esempio sull'IMU, diciamo quello che abbiamo detto a dicembre 2011, che poi anche a causa dell'opposizione del PDL si è potuto fare, cioè noi non riteniamo praticabile ora l'eliminazione completa dell'IMU, vogliamo introdurre una detrazione di 500 euro sull'IMU sulla prima casa e incrementare l'aliquota sugli immobili di valore superiore al 1,5 milioni di euro e diciamo per alleggerirla vogliamo che i beni strumentali delle imprese siano considerati come prima casa e non come seconda casa, e quindi con una riduzione di aliquota che dallo 0,9 arriva allo 0,4%, a invarianza di gettito, perché purtroppo i problemi rimangono, ma con un intervento che appunto, oltre a alleggerire il carico sulle imprese, alleggerisce e elimina il carico per la stragrande maggioranza delle famiglie che vivono in abitazioni che valgono meno di 1,5 milioni di euro. Questa è una proposta seria che fa i conti con la situazione in cui siamo, perché purtroppo i danni che sono stati causati da Berlusconi, che adesso riappare sulla scena come fosse arrivato ieri, sono danni che permangono e comportano ancora attenzione al rigore, ma allo stesso tempo un'attenzione all'equità che certamente non c'è stata in questi anni. Chiudiamo Fassina e la saluto, perché appunto avete sentito puntata che abbiamo attrezzato molto rapidamente e quindi anche Fassina ci deve salutare tra poco. Le chiudo invece con una... le chiedo una battuta politica, una valutazione politica. Questa mattina il Presidente del Consiglio Monti, il suddetto Presidente del Consiglio Monti, dice: se vogliamo ancora sostenere con il voto partiti che sono su piazza da tempo, che per 20 anni hanno fatto sì che l'Italia crescesse meno degli altri, hanno combinato un bel disastro e hanno dovuto chiamare un professore al governo, beh, le cose non si metteranno tanto bene. Ci siete anche qua, come nella domanda dell'ascoltatore, ci siete tutti dentro, insomma. Presidente Monti continua questa sua equidistanza da entrambi i partiti. Vorrei ricordare al Presidente Monti, che lo sa bene ma fa campagna elettorale, che il centrosinistra in questi 20 anni è quello che ha salvato l'Italia nel 2002, nel 92-93 e poi ha portato l'Italia nell'euro nel 1996, quando gli altri invece si mettevano di traverso. Il centrosinistra è quello che ha preso nel 2006 un paese che era di nuovo all'aumento del debito pubblico con una procedura di deficit eccessivo e lo ha ricondotto su binari di sostenibilità. il centrosinistra è quello che ha dato un contributo decisivo a mandare a casa Berlusconi nel 2011 e a far nascere il suo governo, a sostenerlo con lealtà, seppur con posizioni critiche fino alla fine. Gli elettori giudicheranno se è possibile fare questa equazione tutti uguali. Mi pare un po' quella propaganda qualunquista alla quale purtroppo anche il presidente Monti spesso ricorre per cercare di trovare una collocazione, utilizzando un po' anche, cavalcando anche lui un po' l'antipolitica come di moda fare, per cui tutti uguali, lui che arriva da fuori e che salva il paese. Credo che gli elettori sappiano bene distribuire le responsabilità, certamente anche noi abbiamo avuto i nostri difetti, ma equiparare tutti mi pare un'operazione infondata. Grazie, grazie a Stefano Fassina, responsabile economico del Partito Democratico, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a lei. Sentiamo qualche ascoltatore. Ah, io intanto saluto Tito Boeri, economista all'Università della Bocconi, editorialista di Repubblica. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore, l'uomo che, insomma, che tiene sotto controllo i conti pubblici per il giornale. Buongiorno, Dino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sentiamo due ascoltatori intanto, però, che ci hanno chiamato all'800240024 e chiedo di essere molto brevi. Giuseppe ci chiama da Mantova, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. La mia era una domanda per Brunetta, che non c'è più purtroppo, ma era un po' una provocazione. Nel senso che se loro sono così convinti di aver risolto il problema della restituzione dell'IMU, che rispondano in solido subito loro. Quindi ci mettono i 4 miliardi e mezzo, quello che saranno, e dopo li recuperano da tutti i proventi che loro pensano di recuperare, per cui il fumo, il tabacco, l'alcol, la Svizzera e tutte queste storie qua, nel senso che ormai, cioè, credere a queste storie non si crede, o quantomeno io non ci credo assolutamente più, nel senso che il processo lungo e prescrizione breve si fa in 4 giorni, quando invece si tratta di fare delle cose che servono veramente ai cittadini non si fanno, per cui sono tutte delle storie che non... Lei dice, Giuseppe, chiarissimo, lei dice anticipate i soldi e poi ve li prendete voi dalla Svizzera, l'accordo con la Svizzera e via dicendo. Provocazione non male. Sentiamo anche Augusto che ci chiama da Genova, anche lei breve, Augusto. Sì, brevissimo, grazie dell'ospitalità. Io invece sottolineavo il fatto della mancanza della capacità dei politici in genere, dei tradizionali partiti, di ridurre la spesa pubblica, cosa che ormai è diventato un cancrena per l'Italia, oltre ad avere questa ipocrisia di inventarsi pseudo accordi con Svizzera che poi non si possono tradurre in pochi mesi ma in chissà in quanti anni per recuperare soldi che non ci saranno mai nel nostro bilancio. Comunque quello della spesa pubblica, della razionalizzazione della funzione della burocrazia in Italia, dell'evasione che è sempre più grave in questo periodo di crisi, questo è un'incapacità cronica di entrambi gli schieramenti, centro-sinistra e centro-destra. Grazie, grazie Augusto per la sua valutazione. Io verrei a Tito Boeri. Ieri ho visto un suo tweet, professor Boeri, nel quale al volo ci diceva che questa operazione costerebbe perché c'è questa restituzione dell'IMU, ma c'è anche di nuovo l'eliminazione dell'IRAP tra le proposte che ha fatto Silvio Berlusconi, costerebbe 58 miliardi addirittura? Sì, beh, è una stima chiaramente approssimativa, ma basta fare due calcoli per arrivare molto vicino a questa cifra. Partiamo dalla questione dell'IMU e della restituzione, sono circa 4 miliardi il gettito annuale dell'IMU sulla prima casa, siccome nel 2013 si dovrebbe restituire anche quanto versato nel 2012, quindi è 4 miliardi per due, quindi sarebbero 8 miliardi nel 2013 e poi a regime 4 miliardi. Poi c'è l'IRAP, tra l'altro importante sottolineare che il governo Berlusconi aveva ottenuto addirittura una delega dal Parlamento nel 2003, quindi avrebbe potuto benissimo eliminarla durante legislature, tra l'altro in cui non c'era una pressione sui conti pubblici così forte come quella che c'è oggi. Questa vale circa 35 miliardi a regime, possiamo pure pensare che venga spalmata, quindi il primo anno 7 miliardi, il secondo 14, comunque a regime ci saranno 35 miliardi che dovranno essere reperiti per ovviare al fatto che si abolisce l'IRAP. Poi c'è un effetto sicuramente sulla credibilità del nostro paese, perché ricordiamoci che il miglioramento della situazione per i costi degli oneri sul debito e i rendimenti dei nostri titoli di Stato c'è stato quando il governo Monti ha ripristinato la tassa sulla prima casa e ha fatto la riforma delle pensioni. Erano due cose che ci venivano richieste dai mercati, perché in tutto il mondo si tassa la prima casa, tranne che da noi, pur essendo un paese in cui ci sono molte persone che hanno proprietà di case, e quindi era una mossa che veniva chiesta al governo italiano, ed è da lì in poi che lo spread si è abbassato. È presumibile, in realtà il calcolo di quanto è migliorato lo spread in Italia rispetto alla Spagna è circa di 240 punti base. Mettiamo che noi perdiamo 100 punti base perché noi togliamo di nuovo la tassa sulla prima casa, questo vuol dire a regime circa 20 miliardi in più di spesa per gli interessi sul debito pubblico, che verrebbero pagati per lo più a investitori stranieri. Quindi insomma in totale si arriva ad una spesa a regime che è attorno ai 60 miliardi di euro. A mio giudizio è assolutamente un'operazione che non è fattibile. Tra l'altro questo impedirebbe di fare qualsiasi altra cosa, perché il programma elettorale del PDL parla di non aumentare l'IVA, se si fa un'operazione di questo tipo l'IVA bisogna aumentarla, parla di fare delle detrazioni fiscali per i nuovi assunti, e ovviamente se si fa questo bisognerà tassare di più il lavoro, perché per recuperare 60 miliardi bisogna tassare di più il lavoro. Non ci saranno soldi per gli ammortizzatori sociali, adesso sappiamo che mancano i soldi per la cassa in deroga per esempio. Non si potranno fare investimenti pubblici, bisognerà prorogare il blocco dei salari nel pubblico impiego, ecco, sono tutte cose che bisognerebbe fare per mettere in atto questa operazione di stampo chiaramente molto elettorale. Chiarissimo. Dino Pesole del Sole 24 Ore, in realtà, ed è un'osservazione che abbiamo fatto poco fa anche a Brunetta, che appunto aveva disponibili solo i primi 20 minuti della trasmissione e poi se n'è dovuto andare, insomma, in realtà qua stiamo parlando di riduzioni delle tasse, e devo dire la verità, lo fanno un po' tutti, in un paese nel quale che probabilmente dovrà affrontare una nuova manovra. Questa è una cosa che tu e il Sole 24 Ore che scrivete da tempo, insomma, se non ero intorno ai 7-8 miliardi, Tremonti parla di 14, ma là stiamo, insomma, no? Sì, questo, insomma, con rispetto per chi la propone, mi sembra, e anche per chi le propone, perché come dicevi ora, il tema delle tasse è evocato da tutti, mi sembrano dei capitoli irrealizzabili di un libro dei sogni che tra un po', tra due o tre settimane, si rivelerà tale. Il problema della manovra o della non manovra è semplicemente questo, cioè poiché noi quest'anno l'economia italiana andrà in recessione per l'1% circa secondo la Banca d'Italia e il Fondo Monetario, mentre il governo aveva previsto un -0,2, c'è cioè uno scarto di -0,8 che provocherà maggiore deficit. Allora il punto qual è? Poiché noi ci siamo impegnati con Bruxelles a realizzare un bilancio in pareggio in termini strutturali, che vorrebbe dire al netto appunto delle variazioni del ciclo delle una tantum, questa parte di maggior deficit potrebbe essere in qualche modo, come possiamo dire, abbonata, ci potrebbe essere uno sconto. Invece uno sconto non ci sarà, e qui allora parliamo di manovra, ma non di manovra in senso classico come correzione dei conti, ma perché bisognerà fare nuove spese, e perché ci sono alcune emergenze che richiederanno di andare a reperire delle risorse per finanziarle, quindi altro che riduzione delle tasse. Noi dobbiamo intanto, ricordo sia l'onorevole Berlusconi che quanti altri si occupano di questi temi in campagna elettorale, che casomai l'urgenza non è l'IMU, ma è cercare di evitare che dal 1 luglio aumenti l'IVA dal 21 al 22%. Se ne sono dimenticati un po' tutti, ma questo avverrà. E anche guarda caso si tratta di 4 miliardi. Poi ci sono altre emergenze sul fronte della spesa, probabilmente non bastano le risorse per gli ammortizzatori in deroga, c'è il problema degli esodati, c'è il problema delle missioni internazionali che sono finanziate solo fino a settembre. Quindi quest'anno, con diciamo buona pace di quanti propongono in campagna elettorale mirabolanti ricette fiscali, non ci sono margini, perché poi la spesa pubblica la si può ridurre, ma gli effetti di riduzione della spesa pubblica non certo sono simultanei quanto quelli di un sconto fiscale immediato. L'accordo con la Svizzera è tutto da costruire, certo. Sono anni che se ne parla. Quindi mi sa che forse occorrerà un po' di prudenza, perché gli italiani forse poi non credono più, poi alla fine se le cose non si realizzano. 9 in punto. Sentiamo Elio che ci chiama da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo fare un intervento se riguardo all'IMU. C'è un bell'articolo sul sito lavoce.info, che è un sito di informazione principalmente economica che consiglio vivamente, in cui spiega come togliere l'IMU dalla prima casa per rimodularla sulle seconde e terze case significa semplicemente aggravare gli affitti per le persone che non hanno una casa, quindi è ancora peggio che lasciare l'IMU sulla prima casa. Io consiglierei a Monti, alla Fassina, al PD di non andare dietro al pifferaio magico su questa linea, bisogna spiegare alle persone che cos'è l'IMU, perché è strutturata così. Ecco, grazie Elio, grazie Elio, poi immagino ne parleremo adesso col professor Boeri, che immagino sarà contento della citazione della voce.info, che insomma è più o meno una sua creatura. Alessio ci chiama da Trieste, buongiorno. Pronto, buongiorno. Io sono esterrefatto per queste ultime dichiarazioni da parte del PDL, perché da un partito di centrodestra mi aspetterei un po' più di lungimiranza per quanto riguarda i conti. Abbiamo un debito stratosferico, cioè il nostro paese in futuro secondo me è destinato al fallimento, e cosa lasciano le nostre generazioni? Debiti su debiti. Abbiamo tutti questi soldi per ripagare l'IMU? Secondo me no, mi sembra di capire dalle vostre trasmissioni che ci sono aziende che non fanno altro che fallire ogni giorno per tutti i debiti della pubblica amministrazione, aspettano di essere pagate dopo un anno, e noi adesso tiriamo fuori 4 miliardi per l'IMU. Cioè, sono esterrefatto, non so proprio più cosa dire. Secondo grazie, me ha ragione, grazie ma... Alessio, grazie Alessio. Andiamo brevi, Massimo dalla provincia di Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Prego, anche allora... lei breve, Sì, sì, brevissimo. Volevo solo fare questa precisazione, nel senso che se io e mia moglie abbiamo comprato un'abitazione facendo dei sacrifici e poi entrambi abbiamo ereditato un'abitazione dai nostri genitori e ci troviamo a pagare una barca di soldi quando praticamente sono frutto dei sacrifici dei nostri genitori. Quello che dico è che bisognerebbe creare degli scaglioni per poter pagare, diciamo, questa benedetta IMU. Quindi io non sono contro l'IMU, ma però secondo il mio punto di vista bisogna creare degli scaglioni. Se uno ha 15 case, 20 case, 50 case, logicamente deve pagare di più di chi eventualmente ha soltanto una casa, oppure magari ce ne ha tre perché ha avuto la fortuna di ereditarne dai loro genitori. Tutto qua. Grazie, grazie Massimo, che è più o meno quella della rimodulazione, almeno non proprio in questi termini, è più o meno la proposta del Partito Democratico. Allora, professor Boeri, quest'IMU in realtà serve, avete scritto sulla voce.info, vede che bella citazione in onda, non l'abbiamo nemmeno organizzata, prego. Sì, certamente è fondamentale per un paese come l'Italia avere una tassazione sulla prima casa, perché non tassare la prima casa, la casa di proprietà, comporta il fatto che poi i costi si riversano sugli affittuari, perché ci sono pochissime case che vengono offerte in affitto e quindi i prezzi degli affitti vanno alle stelle, e quindi abbiamo delle persone che non possono permettersi di comprare una casa, che oggi sono davvero coloro che pagano lo scotto di una situazione così fortemente squilibrata, che è unica nel panorama dei paesi dell'area OCSE. Se a quel punto dovessimo tornare ad abolire la tassazione della prima casa. Quindi è fondamentale tassare la prima casa, bisogna farlo chiaramente in modo equo. Ecco, il problema che c'è oggi in Italia è che i valori catastali sono dei valori spesso molto lontani da quelli del mercato. Allora, anche qui avevamo fatto delle proposte. L'Agenzia del Territorio raccoglie sistematicamente tutti i dati sulle compravendite di case in Italia, è possibile sulla base dei dati dell'Agenzia del Territorio stimare qual è il valore di mercato di diversi immobili sulla base delle loro caratteristiche, della loro posizione, in quale quartiere di una città sono. Ci sono delle stime molto precise che si possono fare su questo. Bene, allora usiamo questo come base anziché usare i valori catastali, nell'attesa che si faccia una rivalutazione degli estimi catastali, che è un'operazione che da anni si dice che si vuole fare e che non viene mai fatta. È chiaro che oggi l'IMU non è un'imposta amata dagli italiani, perché chiaramente è oggi iniqua, nel senso che ci sono delle persone che hanno avuto la sfortuna di vedersi rivalutati i loro estimi catastali, che pagano magari molto di più di quanto paghino delle persone che hanno delle case con più alto valore e che, cui però estimi catastali sono rimasti. Sono rimasti quelli di prima. Chiarissimo, professore, per chiudere con Dino Pesole, veramente un minuto, Dino, per rispondere anche alla sollecitazione di poco fa dell'ascoltatore. In realtà in tutto ciò non c'è nessuno dei grandi partiti che abbia proposto delle spese credibile, cioè un programma di taglio delle spese veramente credibile. È veramente il problema, è la scommessa, perché se è facile promettere tagli di tasse è altrettanto complicato decidere dove e come andare a tagliare. Se guardiamo la storia degli ultimi anni è il bilancio, ci riferiamo ovviamente alla spesa primaria, cioè quella che è la spesa viva, non certo la spesa per interessi, il bilancio non è certo incoraggiante, anche perché lo ricordo a modi flash. La spesa pubblica è un potentissimo motore di consenso in campagna elettorale e quindi si guardano bene dal dire dove e come tagliare, ma questa è la strada. E poi soprattutto un'altra parola credo che dovremmo cominciare a evocare in questa campagna elettorale è la crescita, perché solo se il PIL riprenderà a crescere in modo, almeno un 1,5-2% l'anno, potremmo cominciare a immaginare un percorso di riduzione delle tasse. Grazie anche a Dino Pesole, grazie a Tito Boeri, grazie per essere stati con noi. Gli altri ringraziamenti: Filippo Aureggi in regia, Franco Piantanida in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione questa mattina anche col supporto di Laura Fagin, come sempre le ragazze dal centralino. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci sentiamo domani come sempre dopo il giornale radio delle 9.